that new generic pop song. Let's dance around as we listen in our new car. Oh my God, it's that new generic pop song. Let's sing along as we bob our heads at the bar. This is the rap verse on a brand new pop song. I don't want to talk about a girl, is that wrong? So strong on top for 2 weeks. I want to hit up the club and look for two freaks. Maybe I should try to do some black eyed peas and paint a picture of a body. Everybody say cheese. Grab the keys, ride to the club. Look at some weirdos, ladies showing love. Try Lady Gaga, girl, just dance. I might be gone in a bad romance. Pop some champ from the south of France. So drunk, looking like I got ants in my pants. Maybe I should try something more generic. Tell inside jokes in an esoteric. Getting buzzed, everybody's feeling so hysteric. And when you get it on, just wear it, please. Oh my God, it's that new generic pop song. Let's dance around as we listen in our new car. Oh my God, it's that new generic pop song. Let's sing along as we bob our heads at the bar. I like this pop song, I like to party. Fashionably late, I'm coming in tardy. Hardly famous, tell me who you came with. Make it one night and it'll remain nameless. That's what I need from my DJ. Play a pop song, play another and put it up on replay. Then hit the freeway, riding a Mercedes, yo. A pop song's on the radio, sing! Oh my God, it's that new generic pop song. Let's dance around as we listen in our new car. Oh my God, it's that new generic pop song. Let's sing along as we bob our heads at the bar. Rockstar, and I'll show you how to party hard. Rockstar, and I'll show you how to party hard. Rockstar, and I'll show you how to party hard. Rockstar, and I'll show you how to party hard. Oh my God, it's that new generic pop song. Benvenuti nel DJ Ball, la classifica delle canzoni più strane di questa settimana. All'interno di una pita quella persona. Andiamo subito alla Hit Parade con la numero 3, dove troviamo Andrea Miraldi, Annucci, sono uomo Bagni. Stop. passiamo subito, subito, veloce, veloce, ragazzi, alla numero 2, dove troviamo Giorgio con Io Vagabondo con la Clio, vai con la hit! Io un giorno crescerò e la Clio di mio zio ruberò. Ma mio zio che dirà quando la sua vecchia Clio non vedrà? Poi una notte di settembre la rubai forzando la portiera, e per fortuna l'antifurto no, non c'era. Dal terzo piano un rumore, era lo zio che urlava dal balcone, io vagabondo con la Clio, vagabondo che non sono altro, la patente non ce l'ho, l'ho lasciata a casa dello zio. Sì, lo zio ancora là, dal balcone imprecava pure Allah. E adesso lui dirà, mio nipote sembra proprio Alibaba. Poi di dicembre ritornai, credevo che dormiva, ma era lì che mi aspettava in cucina. Chissà dov'era la patente, mentre lo zio mi diceva sei fetente, io vagabondo con la Clio, vagabondo che non sono altro, 10 euro non ce li ho, la benzina me la fa lo zio, vagabondo con la Clio, vagabondo... Eccoci qua, siamo arrivati in cima alla numero 1, la top team, la top la top 3, la top, insomma, che lo cagazzo vi pare piace, la numero 1 delle canzoni più sconcludenti della nostra hit parade all'interno di Non aprire quella persiana di questa settimana è Papero con la mia nuova goal. Vai, alla prossima settimana, numero 1. Ho preso la macchina nuova e torno a casa da Silvana. Per strada incontro mia cognata che mi chiede un passaggio sulla Golf, sulla mia nuova Golf. Ma me l'ha chiesto in un modo che mi pareva strano, ne sbaglierò. Su mia cognata da sempre girano voci strane, ma io però a queste cose non credo, sono voci del quartiere ed è molto soft. Mi dice gira te porto in un posto che conosco solo da un po'. Ha detto qua ti puoi fermare, sui vetri metterci il giornale. Dicono che mi piace tanto, fa una cosa, te la faccio sulla Golf, sulla tua nuova Golf. Mi dice abbassa il sedile, sta buona rilassata, lascia fa a me. E per fortuna che andavi a scuola dalle ore del sacro re. Certo però mi cognata conosce la materia, non c'è che dirgli. E Silvana, arrivo più tardi, che qui la cosa lunga, tu va a dormire. E adesso non ti puoi fermare, di quelle voci del quartiere. Dicono che ti piace tanto, fa una cosa vera, fai sulla mia corpo, sulla mia nuova corpo. Stasera la persiana si chiude, ma se voi